Focus Economia. Con Simone Spezia. Sono le 17:07 minuti e 53 secondi. Buonasera, gentili ascoltatori, da Simone Spezia e benvenuti a questa puntata di Focus Economia, lunedì 17 ottobre. Come già vi riferiva il giornale radio, le borse, dopo aver aperto in positivo ed essere state a ridosso della parità a metà giornata, hanno avuto una decisa virata in negativo. Sulla scorta appunto anche dell'America, il Dow Jones perde l'1,14% in questo momento, il Nasdaq l'1,06, lo Standard & Poor's 500 l'1,12. Milano è la peggiore d'Europa al momento, perché se Parigi scende di 1,5%, Francoforte dell'1,8%, Milano lascia sul terreno il 2,44% sul FTSE MIB e il 2,07% sul FTSE All Share. A pesare naturalmente le banche, come sempre, come spesso accade in questi casi, con Unicredit che cede il 6,8%, Intesa San Paolo il 6,16%, il Banco Popolare il 4,6%, la Popolare di Milano il 4,08%, ma andava male già dall'inizio della giornata, quindi sembra che le preoccupazioni si rinfoltiscano anche sulla scorta di dichiarazioni di vario genere piuttosto contrastanti arrivate oggi, soprattutto dalla Germania. Naturalmente parleremo dei mercati, parleremo di questa giornata sui mercati poi ci occuperemo di altri temi, a partire due temi opposti tratteremo nella prima parte di Focus Economia, ossia il rapporto della Caritas sulla povertà, rapporto dal quale emergono dei dati impressionanti. Uno su tutti è che c'è stata negli ultimi 4 anni una crescita dell'80% delle richieste di aiuto economico ai centri Caritas, un dato che colpisce abbastanza perché forse fotografa meglio la situazione di tanti dati generali sui redditi degli italiani che ogni tanto diffondiamo, ma che naturalmente hanno il difetto di non tener conto per esempio dell'evasione fiscale. Poi parleremo di lusso, perché invece quasi a contrasto di tutto ciò il mercato del lusso cresce secondo una ricerca di Bain ed Alta Gamma pubblicata oggi. Poi nella seconda parte di Focus ci occuperemo del tema centrale di queste ore, che è la situazione delle banche europee, la necessità di ricapitalizzazione e soprattutto di quelle due banche, una austriaca e una franco-belga, quindi Dexia ed Erste, che sono maggiormente in difficoltà in queste ore nelle quali il vice governatore della Banca d'Austria ha detto tra le altre cose che serviranno 4 miliardi di euro di ricapitalizzazione alle banche austriache, ed è anche su questo che si sta ragionando in Europa, ripeto, tra annunci contrastanti. Iniziamo dalle notizie in breve di oggi. E di questa mattina una lieve risalita dell'oro a 1684 dollari al barile, il petrolio invece ha aperto il rialzo e poi ha virato, come forse era prevedibile, in negativo. Il WTI con consegna novembre cede nello 0,73%, 86,15 dollari al barile. Una buona notizia per una società italiana, visto che siamo in tema di petrolio. Saipem si è aggiudicata nuovi contratti per 1,5 miliardi di dollari in Iraq, in Nigeria, e si legge in una nota: alcuni contratti nei settori norvegese, britannico, del mare del nord e nel golfo del Messico. Non a caso Saipem è tra i pochi titoli che in questo momento si conserva in positivo, guadagna il 3,13%. I dati arrivati dall'America: la produzione industriale sale a settembre un più 0,2%, che era esattamente quello che si attendeva il mercato. E poi ci sono due dati interessanti che arrivano dal fronte dei risultati societari. Innanzitutto quelli di Citigroup: un più 74% l'utile del terzo trimestre a 3,77 miliardi di dollari, 1,23 dollari per azione, dai 2,17 precedenti. Il risultato supera le stime degli analisti che puntavano su un utile di operazione di 82 centesimi. E poi Apple si è appreso che nel fine settimana, in questo primo fine settimana di vendite, l'iPhone 4S, insomma, ne sono andati via 4 milioni. È il massimo risultato mai raggiunto da un telefono. Il dopo proteste di sabato, Roma e violenze a parte, diciamo, c'è il presidente della Commissione europea, José Manuel Durão Barroso, che dice: capiamo gli indignati, ma l'indignazione non basta. E a parlare della situazione più che altro finanziaria ed economica europea è ancora il governatore della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet. Dice: stiamo affrontando momenti difficili, ci sono dubbi sulla tenuta di alcuni stati sovrani e questo crea una situazione che minaccia la stabilità. Mentre la cancelliera tedesca Angela Merkel: per uscire da questa crisi serve un lungo lavoro, che forse avrà termine il prossimo anno, ancora più in là. Poi c'è il governatore della Banca di Francia, Christian Noyer, ad una conferenza a Parigi. Potrebbe essere irrealistico aspettarsi un incremento del fondo salva stati, anche se dice di essere personalmente aperto alla possibilità di utilizzare il meccanismo della leva finanziaria. La Banca Centrale d'Austria, vi abbiamo detto, parla di necessità di ricapitalizzazione per gli istituti austriaci fino a 4 miliardi, parla anche il Presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, dice: siamo consapevoli che stiamo affrontando un periodo impopolare, ma è necessario per salvaguardare la possibilità di un futuro migliore. E parla anche di necessità di distribuzione equa dei sacrifici. Poi c'è anche il professore della New York University, Nouriel Roubini, soprannominato Dr. Doom, come sapete, per le sue previsioni in genere abbastanza nere sull'economia, ma anche abbastanza azzeccate. Dice: per evitare il crack, Italia e Spagna hanno bisogno di una soluzione shock in futuro. E ancora il professor Mario Monti, presidente della Bocconi: in queste ultime settimane mi sono reso conto che c'è viva preoccupazione, la situazione greca si considera sotto controllo, ma c'è preoccupazione perché se la vicenda tocca Italia o Spagna le munizioni possono non essere sufficienti. E oggi è una settimana decisiva, a quanto pare, per il decreto sviluppo. Il premier Berlusconi non si è ancora sbilanciato né sul fronte delle risorse né su quello degli interventi. Ci sono ancora malumori, appunto, sullo stanziamento delle risorse. Molti chiedono al premier uno scatto per mettere in un angolo Tremonti. Il presidente del Consiglio al momento appare cauto. Il ministro Matteoli dice oggi: il decreto sviluppo senza risorse è monco e trovare le risorse non è facile. L'auspicio di Matteoli è che non sia a costo zero. 349-238-6666 per i vostri SMS. Iniziamo parlando di povertà. È stato presentato questa mattina a Roma l'11° rapporto sulla povertà e l'esclusione sociale in Italia, realizzato da Caritas e Fondazione Zancan, intitolato quest'anno Poveri di diritti. Dal rapporto emerge una situazione in peggioramento, con un incremento delle richieste di assistenza del 42% negli ultimi 4 anni. Lo spiega bene Monsignor Vittorio Nozza, direttore della Caritas Italiana, al microfono di Adriana Fracchia. Innanzitutto viene sottolineata questa presenza di povertà relativa attorno agli 8.270.000 persone, più una povertà assoluta del 5,2% degli italiani, cioè circa 3.150.000 persone. Sono aumentati gli italiani, c'è un ritorno degli stranieri a frequentare i servizi della Caritas perché hanno perso lavoro. C'è una marginalità grave che non è in decrescita ma è costantemente in crescita, e quello che preoccupa soprattutto è che delle persone incontrate, ascoltate, si ha a che fare con interi nuclei familiari. Un buon 13,8% di queste persone sono nuclei familiari che non hanno disagi in atto, ma la crisi economico-finanziaria ha messo nella condizione di cascare in precarietà e fragilità. L'aumento forte di nuovi poveri, cioè di questi nuclei familiari, è legato al territorio del Mezzogiorno, un più 74%. La nota, direi così, preoccupante, una crescita del circa 20% dei giovani al di sotto dei 35 anni. Non hanno studio in atto, non hanno lavoro e soprattutto stanno gradualmente spegnendo il desiderio di sfruttare qualsiasi opportunità pur di rimanere a galla. Ecco, questa terza nota ci preoccupa molto proprio perché vuol dire che rischiano di consegnare la loro vita alla non speranza. Queste dunque le parole di Monsignor Vittorio Nozza, un direttore della Caritas Italiana. Come abbiamo sentito, ha illustrato al microfono di Adriana Fracchia alcuni elementi principali del rapporto. Io saluto il professor Stefano Zamagni, docente di economia politica all'Università di Bologna e presidente dell'Agenzia per il Terzo Settore. Buonasera, professor Zamagni. Buonasera anche a voi. Tra gli altri dati interessanti che possiamo citare ci sono le richieste di aiuto economico ai centri di ascolto delle Caritas diocesane, un aumento di circa l'80% nel giro di 4 anni. Ora, noi quando vediamo i dati sulla povertà tendiamo in parte a sottovalutarli, se così si può dire, perché per esempio la stessa Caritas ci segnala che c'è una sostanziale difformità tra quelli che sono i dati ufficiali e la realtà del paese. Perché? Perché vediamo i dati sui redditi dichiarati dell'Istat e li prendiamo un po' sotto gamba pensando, insomma, qua c'è una quota discreta di evasione fiscale, mentre invece questi dati della Caritas sono molto concreti, perché un più 80% di richieste economiche ai centri di ascolto Caritas, professore, è oggettivamente impressionante nel giro di 4 anni. Sì, il punto è che molti ragionano sbagliando in questi termini. La povertà c'è sempre stata, anche in altre epoche storiche, e dunque sempre ci sarà. Dov'è l'errore? L'errore è nel non tener conto del fatto che oggi la povertà non è affatto necessaria, che vuol dire che potrebbe non esserci. Dunque la povertà di oggi non è dovuta a scarsità di risorse, soprattutto da quelle alimentari di altro tipo, ma è dovuta al fatto che l'assetto istituzionale che regola la produzione e la distribuzione del reddito delle ricchezze è fondamentalmente sbagliato, e dunque la povertà è generata dal sistema stesso. Mentre in passato la povertà era dovuta alle carestie, sto parlando dei paesi occidentali ovviamente, alle carestie, alla mancanza oggettiva di generi di primaria necessità, oggi la povertà è dovuta a un assetto istituzionale, cioè politico e giuridico, che porta a questi risultati. Dunque, concludo su questo, la povertà oggi è un fatto essenzialmente scandaloso. E allora a questo punto è lecito porsi la domanda: perché succede questo? Di chi è la responsabilità? Ma forse sarà oggetto di domande successive. Sì, questo sicuramente, professore, perché lei dice giustamente che è scandaloso, e però è evidentemente uno squilibrio sistemico, perché non è un fatto che riguarda solo il nostro paese. Ora stiamo parlando del nostro paese, ma non riguarda solo il nostro paese tra i paesi occidentali. Penso ad esempio agli Stati Uniti, tanto per dare un'idea ai nostri ascoltatori. Dunque le cause dove sono, naturalmente sono diverse da paese a paese, e soprattutto come se ne esce. Di questo bisogna sempre parlare, ricordarsi di parlare, che la povertà non è un fatto solo dell'Italia, perché se così fosse basterebbero interventi tutto sommato agevoli per rimedio a questo flagello. Il punto è che il modello di economia capitalistica ereditato dal passato recente è oggi obsoleto, cioè superato. E quindi è evidente che le misure tampone che vengono prese per porre rimedio al flagello della povertà non possono che sortire effetti indesiderati, servono soltanto a tamponare le falle. Allora bisogna prendere atto di due fenomeni, la globalizzazione da un lato e la terza rivoluzione industriale dall'altro, hanno di fatto e eliminato l'accesso al lavoro di circa il 25-30% della forza lavoro, la quale non riesce più a trovare occupazione all'interno del settore capitalistico dell'economia. Questo 25-30% è di forza lavoro, è quella massa che va poi ad alimentare le statistiche di cui abbiamo parlato. È di qui che dobbiamo partire, perché altrimenti i poveri di oggi non sono persone, come dire, analfabete o persone che sono sempre state così. I poveri che vanno alla mensa della Caritas si rivolgono ai centri di ascolto della Caritas, sono persone che 10, 15 o 20 anni fa vivevano una condizione di vita normale. È di questo che dobbiamo prendere atto. Allora, la forma attraverso la quale si combatte in maniera seria la povertà è il lavoro, perché questa gente è caduta o nella disoccupazione o nella sottoccupazione o nel precariato. Questo è oggi il nome nuovo della povertà, e quindi occorre intervenire per allargare gli spazi occupazionali. Come? Non pensando che gli unici spazi occupazionali siano quelli occupati dalle imprese di tipo capitalistico. Dobbiamo far partire imprese come le imprese sociali, le imprese civili, le forme nuove di imprese cooperative, che hanno la caratteristica di svolgere la funzione della spugna, come dire, cioè di assorbire quella percentuale di lavoro che il settore capitalistico, come ho già detto l'altra volta, non riesce ad assorbire. Allora a questo punto diminuiranno i poveri in senso relativo, un po' meno quelli in senso assoluto, e si potrà riavviare un nuovo ciclo di sviluppo. Ci sembra quasi sentir parlare uno degli indignati, che naturalmente non quelli che hanno spaccato le vetrine, di quelli che abbiamo visto in piazza, delle persone normali che hanno manifestato a Roma l'altro giorno. Esatto, lo stesso discorso l'ha fatto il governatore Draghi ieri l'altro, lo fanno tutte le persone di buon senso. Cioè, il punto è che la povertà non la si combatte con le misure di tipo assistenzialistico, queste servono per l'emergenza. Nelle situazioni emergenziali devo dare la coperta, il pasto caldo a chi è rimasto affamato, eccetera. Ma nella prospettiva della media e lunga durata è ridicolo pensare che bastino questi interventi per risolvere il problema, anche perché non dimentichiamo che tenere le persone a lungo tempo fuori dal processo produttivo vuol dire non solo offendere la loro dignità, ma soprattutto diminuire le loro capacità di reinserimento lavorativo. Quindi diventa un circolo vizioso. Ora bisogna smetterla con la retorica, bisogna far partire, ripeto, soggetti imprenditoriali nuovi, diversi da quelli tradizionali, e lì la mia critica al modello vecchio di economia capitalistica, che basava tutte le prospettive di sviluppo imprese appunto for profit o capitalistico. Bisogna capire, soprattutto a quelli che hanno la testa dura, che non la vogliono capire, che imprenditore non vuol dire pensare profitto. Un'impresa sociale è molto più imprenditrice, di un'impresa che lavora per il profitto, purché sia impresa. Ci sono oggi forme di impresa in cui imprenditori non perseguono l'obiettivo del profitto, a quello ad esempio della massima occupazione o dell'utilità sociale. E allora è a queste imprese che noi dobbiamo dare le ali, come intervenendo sull'assetto giuridico, modificando il codice civile e le leggi, e soprattutto intervenendo sul mercato finanziario. Perché? Perché il nostro mercato finanziario ha generato finora prodotti finanziari soltanto per la speculazione e non per consentire investimenti a imprese sociali e a imprese civili. Allora, se uno ragiona in questi termini, capisce perché evidentemente la povertà oggi può essere combattuta e debellata. Ma forse a molti fa comodo che ci sia la povertà e che duri a lungo per avere forme di legittimazione di un tipo o dell'altro. Questa è una vera e propria ipocrisia, perché lo dico per l'ultima volta, i modi e i mezzi per debellare la povertà sono a nostra disposizione. Il punto è che non li vogliamo adottare. Professore, un ultimo paio di domande. La prima è che per arrivare a quello che lei prospetta ci vuole evidentemente uno scatto politico che in tutta franchezza non è alle viste. Esatto, è vero, lei ha accolto il punto. Il ceto politico ha esattamente questa grave responsabilità di tenere bloccata il processo di sviluppo, pur sapendo che intervenendo nelle forme che ormai tutti sanno, io e tanti altri, già da anni andiamo suggerendo, non avrebbe aggravato il bilancio pubblico. Quindi non si può invocare la questione del debito pubblico che deve essere seriamente presa in considerazione, perché le misure che noi proponiamo servono a ridurre il debito pubblico. Il punto è che probabilmente si ha interesse a mantenere lo status quo per raggiungere obiettivi di altra natura, ma io di questo non voglio dire perché io non faccio mai processi alle intenzioni. Io esamino il punto. Faccio subito un esempio concreto. Nel 2008, quindi 3 anni fa, è entrata definitivamente in vigore la legge sull'impresa sociale. In quella legge ci si è dimenticati, si fa per dire, di estendere a questo tipo di impresa i benefici fiscali che spettano alle onlus e alle cooperative sociali. Il risultato è che dopo 3 anni non riescono a nascere le imprese sociali, perché senza l'adeguamento sul fronte fiscale è chiaro che non possono nascere. Eppure, se ci fosse questa estensione di cui ho detto, nel giro di pochi mesi in Italia potrebbero nascere 50-60 mila nuove imprese sociali che darebbero lavoro almeno a 500 mila di soggetti e quindi si porterebbe via dalla povertà una fetta rilevante. Ora, perché non lo si fa? A lei la risposta. Professore, l'ultima domanda è questa, e fuori dalla battuta, della battuta che le ho fatto prima. A questo punto lei ci dice c'è qualcuno che ha l'interesse a mantenere lo status quo. Quindi in qualche modo una comprensione, se non un appoggio alle ragioni di chi scende in piazza, mi sembra che lei lo dia. No, non è appoggio. Io evidentemente preferirei a coloro i quali scendono in piazza l'adozione di altre strategie, perché quell'azione di piazza, chiamiamola così, ha sempre degli effetti indesiderati e serve a rafforzare lo status quo. Questo bisogna. Ora, io è chiaro che non me la. Io escluso ovviamente i violenti, quelli sono fuori discussione. Io capisco che i giovani ad un certo punto si stufino e, come dire, non abbiano una capacità di previsione degli cosiddetti effetti indesiderati dalla loro azione, però oggettivamente quel modo di protestare è inefficace, perché finisce col portare acqua al mulino di chi dice vedi e basta con le violenze eccetera eccetera. La protesta deve essere sempre civile, mai una protesta violenta, perché le violenze sono anche di forma morale eccetera. Io sono per una protesta nel senso di Hirschman, della voice, vi la chiamavo voice, cioè la voce, che deve incanalarsi nelle forme adeguate a questo, e noi sappiamo quali sono. Quindi io non do appoggio a quel popolo, non tanto per ragioni, come dire, moralistiche, ma perché sono inefficaci, ovviamente sempre escludendo la violenza, sì, sì, che quella va comunque, in ogni caso, sempre condannata. Però è anche evidente che se quei giovani che hanno la voglia, il coraggio e anche i denari, perché devono affrontare i viaggi, incanalassero queste loro risorse di tempo e di energie e un pochino anche di soldi, risorse finanziarie, nelle forme più efficaci, probabilmente si otterrebbero più facilmente dei risultati. Ma come dire, uno non può chiedere, e come dice Manzoni, fa dire a Don Abbondio, se uno il coraggio non ce l'ha non se lo può dare. Grazie dunque al professor Stefano Zamagni, docente di economia politica all'Università di Bologna e presidente dell'Agenzia per il Terzo Settore. Buonasera. Buonasera, grazie. Arrivano molti sms di segni opposti, ci dite finalmente qualcuno che dice cose sensate, ancora chiedete di candidare il professor Zamagni alle politiche del 2013, c'è chi parla invece di demagogia, di un professore che non ascolta i temi per esempio della concorrenza, della Cina e dei paesi emergenti, chi dice ideologia sovietica. Era un'opinione, una posizione, ve l'abbiamo fatta ascoltare e tant'è. Adesso una breve pausa, ci ritroviamo subito dopo e parliamo di borsa. Giù del 2,30% il FTSE MIB, giù dell'1,95% il FTSE All Share e spread tra BTP e Bund sopra i 370 punti. A tra un attimo. Le 17:39 minuti e 30 secondi, di nuovo buonasera da Simone Spezia e bentornati a Focus Economia, è il momento delle borse. Ceo Condine, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, iniziamo da un quadro generale, perché la giornata è iniziata bene, lo abbiamo detto all'inizio trasmissione, poi piuttosto piatta in attesa dell'America, appena aperto l'America, giù tutto. Meno 2,3% il FTSE MIB, meno 1,98% il FTSE All Share. Come mai? Sì, insomma, l'America è stato sicuramente uno dei fattori che ha spinto a ribasso le borse, ma ci sono state, segnalano gli operatori, soprattutto le parole del cancelliere tedesco Angela Merkel a far andare a picco i listini. La Merkel ha poi detto una cosa di totale ovvietà, cioè il fatto che il vertice europeo di domenica prossima non potrà risolvere di colpo i problemi dell'Eurozona. Tanto è bastato però agli operatori per accelerare sulle vendite, forse anche qualcuno era interessato a realizzare i consistenti guadagni realizzati settimana scorsa, accumulati settimana scorsa, visto che settimana scorsa le borse erano andate molto bene. Così alla fine Milano perde il 2-3%, fa un po' peggio degli altri listini europei, ma anche Francoforte sotto dell'1,8% per esempio. Sì, Parigi giù dell'1,6, questo più o meno è il quadro, Londra giù dello 0,6%, nel frattempo l'America perde l'1,13% sul Dow Jones, lo 0,95% sullo Standard & Poor's e lo 0,87% sul Nasdaq. Manco a dirlo le banche. Sì, soprattutto in Italia le banche cedono molto terreno, Unicredito che era arrivata abbondantemente sopra un euro, oggi è tornata addirittura sotto quota 0,9 euro, meno 6,12%, giù anche Intesa San Paolo, meno 5,3%, la Popolare di Milano perde il 4,8% nella settimana che sarà decisiva per formare i nuovi consigli di amministrazione, che vedrà l'assemblea che appunto deciderà le linee guida della nuova governance. Fa eccezione la Popolare Emilia Romagna che in una giornata veramente campale per il credito italiano guadagna lo 0,5%, ma ricordiamo che proprio questo istituto da metà settembre aveva perso il 35%. Andiamo, già che siamo sui titoli negativo, andiamo su quelli in negativo, restiamoci e andiamo su Diasorin, giù del 10% addirittura oggi. Sì, Diasorin ha presentato il nuovo piano industriale, non si può dire che abbia portato fortuna alla società, perché è poi stata accompagnata anche da un taglio delle stime per il 2011, per esempio il margine operativo lordo, che poi è uno dei principali indicatori sull'andamento del business di una società, era stato indicato oltre i 200 milioni, invece c'è stata una piccola rettifica, sarà attorno a 200 milioni, abbassata anche la forchetta sui ricavi, insomma il gruppo paga la crisi e anche in borsa c'è stata questa ondata di realizzi, meno 10% addirittura. Sì, giù tra gli altri anche Finmeccanica lascia sul terreno il 4,8%, la Popolare di Milano l'abbiamo detto 4,8%, ma anche qua ci sono, poi tra l'altro sulla Popolare di Milano ci sono in realtà motivi non solamente di mercato, ecco, mettiamola così, non solo della giornata relativi alla giornata di mercato, CEO, no? Sì, assolutamente, questa sarà, come dicevamo, una settimana decisiva per la banca, ci sarà l'assemblea che deciderà la nuova governance, i nuovi consigli di amministrazione. Come sappiamo, la battaglia è molto serrata, vede i sindacati grandi protagonisti, l'istituto è insomma soggetto a forti motivi di incertezza che sicuramente se a volte hanno spinto ad acquistare il titolo nella prospettiva che qualcuno arrotondasse le quote, oggi sono più che altro motivo di incertezza. Giù anche Fiat del 4,37%. Veniamo ai titoli migliori di questa giornata. Il migliore è Parmalat, anche se lo è stato per un lungo periodo Saipem, che chiude con un guadagno del 3,20%, ma abbiamo questa Parmalat che chiude con un guadagno del 3,36%. Ci sono motivi particolari? Ma no, non ci sono motivi particolari. Insomma, il titolo era rimasto fondamentalmente bloccato fino all'opa di Lactalis, e adesso evidentemente c'è qualcuno che crede nelle prospettive del titolo. L'ultima notizia insomma rilevante sul titolo era quella di settimana scorsa, era il fatto che appunto Lactalis, che ha acquisito il controllo della società molto ambita per la cassa di oltre 1 miliardo che aveva appunto in bilancio, ecco, Lactalis userà quella tassa per pagarsi l'acquisizione, quindi insomma dopo il danno anche la beffa per chi voleva difendere l'italianità di questo gruppo. Ecco, invece c'è più corpo sulla vicenda di Saipem, perché c'è un contratto importante, dei contratti importanti. $1,5 miliardi. Oggi l'annuncio è arrivato questa mattina, nuovi contratti per una cifra decisamente elevata, contratti che vanno dall'Iraq alla Nigeria, altre commesse per il Mare del Nord e il Golfo del Messico. In più il gruppo ha anche negoziato l'incremento di alcuni contratti che erano già esistenti, e quindi l'incremento del business è alla fine molto significativo, e la borsa ha premiato il titolo in una giornata poi decisamente negativa. Grazie a Ceo Condina di Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Grazie a voi, buona serata. Adesso abbiamo la viabilità e poi vi diamo gli altri titoli di questa giornata, dopodiché, dopo aver parlato di povertà in apertura di trasmissione, parleremo di lusso. Le 17:47 minuti, di nuovo buonasera da Simone Spezia. Vediamo un quadro finale degli altri titoli, di come sono andati oggi in borsa. Giù anche Fondiaria Sai del 4,03%, Fiat Industria del 3,8%, il Monte dei Paschi del 3,2%, Ubibanca del 2,8%, così come Pirelli del 2,5% circa, l'Automatica ed Enel del 2,3%, Enel Green Power. Ansaldo del 2,1%, così come ST Microelectronics, di 2 punti percentuali Mediolanum e Mediobanca, così come Buzzi Unicem. Exor giù dell'1,92%, Prismian dell'1,8%, Eni dell'1,7%, Mediaset dell'1,6%, scende dell'1,3% Autogrill, dell'1,1% Generali, di 1 punto percentuale A2A, così come Impregilo. Giù anche dello 0,85% Atlantia, dello 0,76% Luxottica, Campari dello 0,6% di 0,5 punto percentuale Snam Rete Gas, cali lievi dello 0,19%, tanto per Tenaris quanto per Azimut, Telecom Italia dello 0,06%, in perfetto pareggio Terna, TOTS guadagna lo 0,28%, e gli altri ve li abbiamo detti: la Popolare Emilia Romagna su di 0,5 punto percentuale, Saipem del 3,20% e Parmalat del 3,36%. Questo è il quadro di giornata, mentre l'euro quota 1,376 contro dollaro, e gli spread tra i titoli di Stato italiani, i titoli di Stato tedeschi, ossia il differenziale di rendimento tra BTP e Bund, è tornato sopra i 370 punti, arrivando fino a quota 371. Adesso ci occupiamo di lusso. Ancora nel frattempo messaggi di tenore opposto sull'intervento che abbiamo ospitato del professor Zamagni, che dice: bravo professore, ci vuole economia sociale. Chi fa una battuta dice: se le tasse le togliessero a tutte le aziende, altro che 50.000 imprese nascerebbero. C'è chi addirittura dice, insomma, quelle del professor Zamagni sono opinione, peccato che questo sia anche un professore di economia, e poi ci chiediamo dove siano i cattivi maestri che hanno contribuito a creare il clima che ha portato agli scontri di Roma di sabato. insomma, mi sembra veramente un pochino esagerato, no? Passiamo, e cambiamo decisamente argomento rispetto all'apertura, a parlare invece di lusso. C'è stata la presentazione del rapporto Monitor Alta Gamma 2011. Cos'è Alta Gamma? È la fondazione che riunisce le aziende dell'eccellenza italiana. Parliamo di marchi italiani famosi a livello internazionale. Il comparto del lusso nel 2011 fa segnare un giro d'affari a 191 miliardi di euro, un più 10% è la stima. L'Asia Pacifico è il terzo mercato per il settore del lusso, dietro all'Europa e agli Stati Uniti. Saluto Armando Branchini, segretario generale di Fondazione Alta Gamma. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, iniziamo da questo apparente paradosso, perché stiamo qua a continuare a parlare di povertà, di recessione in arrivo. C'è chi lo dice ancora adesso, naturalmente, che siamo a ridosso di una nuova recessione, e qua parliamo di numeri in forte crescita. Ma il paradosso in parte è spiegato dal fatto che abbiamo dato i consuntivi dal 2010 tratti dai bilanci di più di 500 imprese di tutte le nazionalità che gestiscono il business di 250 marche di lusso, anch'esse di ogni nazionalità. I 191 miliardi di euro è quanto nel 2010 sono stati spesi nel mondo, perciò da consumatori di tutte le latitudini, per comprare beni di alta gamma per la persona, quindi le personal luxury goods delle marche di ogni nazionalità. E, per cui il 2010 era sicuramente l'anno, è stato un anno record dopo il 2007, anche se di poco, ed era l'anno che seguiva la crisi del 2008-2009. Il settore dell'alto di gamma, in 9 delle crisi dell'economia mondiale che ho avuto occasione di studiare dall'inizio degli anni 70, sempre dimostra di essere l'ultimo settore che entra in crisi, il primo che ne esce. Perché? Perché si tratta di prodotti di alta qualità, si tratta di prodotti di eccellenza, ad alto contenuto simbolico, e i consumatori di riferimento normalmente mantengono fino al momento della crisi e immediatamente quando cambia la loro confidence un potere di acquisto che gli consente di affrontare e di comprare quei prodotti. Sì, devo dire che tra l'altro dal rapporto Bain Alta Gamma, quello che avete presentato oggi, anche i segnali per il 2011 in realtà sono positivi. Insomma, noi stiamo qua appunto a ragionare di recessione, mentre invece il segnale che arriva dal, come dire, dal settore, che poi non è un settore in realtà, ma come dire, no? È la sono punta tanti più alta di tanti settori. Il 2011 appunto a 191 milioni è il nuovo anno record. L'anno scorso erano 173 contro i 170 del 2007, quest'anno sono 191, per cui il nuovo anno record. L'Alta Gamma Consensus 2012 ha addirittura fatto una previsione di un possibile ulteriore aumento dell'8% circa a tassi correnti per il 2012, questo nell'ipotesi che non si verifichi uno tsunami economico-finanziario sul piano generale. Ecco. Allora, ci sono anche settori, analisi per singolo settori. Le auto di lusso nel 2011 dovrebbero crescere, il mercato dovrebbe raggiungere crescere del 14%, vini e superalcolici di fascia alta, già cresciuti del 12% nel 2010, dovrebbero rallentare la crescita, facendo segnare però un più 6%. Il comparto degli yacht di lusso, che tra l'altro era sceso nel 2010, dovrebbe raggiungere una crescita del 7%. Allora, se lei ci dice, Branchini, che in genere il settore del lusso è quello che prima di tutti esce dalla crisi, in realtà i segnali che leggiamo da questo rapporto Bain Alta Gamma ci farebbero ben sperare. Ma certamente per il settore in sé, rispetto, sempre incrociando le dita che non ci sia una nuova crisi. No, intendo, mi scusi Bianchini, quello che ci ha fatto capire lei è che è una sorta di anticipatore dell'uscita dalla crisi, no? No, ma è questo che stavo dicendo. E normalmente il settore di lusso è un anticipatore dell'uscita dalla crisi. La premessa è che le previsioni positive del 2012 hanno come presuppongono come condizione che i maghi della finanza impazzita non inventino delle nuove ragioni di crisi dell'economia internazionale. Se questo non succederà, noi siamo convinti che a partire dall'anno prossimo anche i beni di consumo, della pancia del mercato o del branded mass market possano avere, anche un po' in ritardo, con un certo lag di ritardo, ma lo stesso andamento positivo che stanno avendo e che speriamo avranno anche nel 2012 i beni di lusso. Allora, noi adesso abbiamo una pausa per il giornale radio, io però vorrei ritrovarla subito dopo il GR per venire più specificatamente sul nostro paese, sull'Italia, sia dal lato dell'industria che dal lato dei consumi. Ci fermiamo appunto per il GR e ci ritroviamo subito dopo. Le 18 e 9 minuti, di nuovo buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia. Tra gli sms ci chiedete come mai le borse, dopo aver aperto questa mattinata in positivo, abbiano virato in maniera così decisa in negativo. A quanto pare hanno pesato delle parole che in fondo, come si diceva poco fa, sono una banalità detta da Angela Merkel, che dice è impossibile pensare che al summit europeo del prossimo fine settimana arrivi un accordo che risolve tutti i problemi. È evidente, ci vorrà del tempo per risolvere i problemi dell'Eurozona, eppure ai mercati, che evidentemente sono molto nervosi in questo periodo, e come abbiamo visto basta poco. A questo si sommi qualche realizzo dopo la crescita dei giorni scorsi ed è probabilmente anche naturale che le cose vadano in questa maniera. Chiudiamo invece il discorso con Armando Branchini, segretario generale di Fondazione Alta Gamma, sul tema del lusso, perché tra i vostri dati emerge che l'Italia è il terzo mercato per il settore del lusso a livello planetario, cioè ci sono gli Stati Uniti, c'è il Giappone e poi c'è l'Italia. Ora, visto che abbiamo parlato del rapporto Caritas sulla povertà giusto in apertura di trasmissione, le chiederei un commento su questo dato, sul vostro naturalmente, non su quello della Caritas. Sì, anche perché avendolo sentito non saprei cosa dire, ma l'Italia si conferma essere nel mondo occidentale secondo mercato dopo gli Stati Uniti e terzo, nel senso che il Giappone anche per nel corso del 2011, 2010 e 2011 si ha ripreso un po' i consumi di questo settore. E questo è un dato molto importante, però se mi consente vorrei sottolineare il ruolo ben più importante che ha l'Italia dal punto di vista dell'offerta, cioè della produzione. L'Italia ha una quota di mercato del 30%, così come la Francia, sui 191 miliardi, che sono i consumi di beni di lusso per la persona. L'Italia ha una quota superiore al 60% sui prodotti di arredamento e design per la casa, perciò il 60% su 18, e l'Italia ha una quota di mercato di produzione del 50% sugli yacht di lusso. Non è una grande cifra, ma siamo pur sempre attorno ai 7-8 miliardi di euro. Sì, dal punto di vista dell'industria italiana, poi ci saremmo arrivati, Branchini, questo non lo mettiamo in dubbio e lo sappiamo bene. Sappiamo che è una delle forze del nostro paese, però io immagino già che gli ascoltatori, al dato su quanto conti, su quanto ampio sia il mercato del lusso in Italia dal punto di vista dei consumi, insomma, qualche domanda sui temi, anche se vogliamo di quanti redditi nascosti ci sono in questo paese e via dicendo, si siano fatti qualche domanda. E quindi le chiedo di chiarirceli un po', perché immagino che ci sia anche una discreta quota di stranieri che compra lusso in Italia, insomma. Beh, diciamo che possono essere circa il 40%, per cui questi, se siano redditi nascosti nel loro paese, ne sono in grado di dirlo, nel momento in cui vendono a comprare in Italia credo che siano benvenuti, perché in ogni caso portano valuta e ricchezza al nostro paese. Per cui grosso modo io direi che sui 17 miliardi e mezzo appunto che sono consumati in Italia, consideriamo che il 40% almeno siano di turisti stranieri. Questo è chiarissimo. L'ultima cosa che le chiedo, come segnale generale, ci chiedono molti ascoltatori, proprio perché abbiamo parlato in apertura di quell'altro tema, dicono però non è un caso che crescano proprio il lusso da una parte e il low cost dall'altra, no? Forse si sta ampliando ancora la forbice. Ma non c'è dubbio che probabilmente si stanno ampliando si sta ampliando la forbice a livello dei redditi disponibili. Non vi è dubbio che la fase di sviluppo del sistema capitalistico che stiamo vivendo probabilmente in tutto il mondo è in questa direzione. Aggiungerei nel fatto specifico dei consumi che mentre dal secondo dopoguerra e fino alla fine degli anni Ottanta c'era stato in tutto il mondo occidentale e anche in Italia una grande crescita dei consumi a livello medio, tant'è che la famosa piramide dei consumi si era gonfiata in mezzo ed era diventata una specie di damigiana. A partire dagli anni 90 in poi la piramide dei consumi diventata damigiana ha cominciato a smagrirsi in mezzo e è diventata una specie di clessidra, con una forte polarizzazione dei consumi tra quelli di alta qualità e di eccellenza e quelli di tipo più basico, più primario, anche tenendo conto che però l'industria mass market ha fatto passi da leone in tutti i settori della chimica, dell'abbigliamento, dell'arredamento e quant'altro, per cui c'è stata sicuramente una polarizzazione molto forte a scapito dei prodotti della fascia media. Ultima domanda che le voglio fare, così la riporto un po' più su quelli che sono i temi che strettamente riguardano alta gamma, è l'aggressione dei mercati esteri da parte dell'industria italiana e soprattutto dei mercati emergenti. L'Italia esporta circa il 90% di quello che produce nell'alto di gamma, per cui nel momento in cui l'Europa tutta intera conta grosso modo il 37% e di questo 37% l'Italia conta circa un 10%, chiaramente 27% viene esportato in Europa, 30% di quello che viene prodotto viene esportato negli Stati Uniti e praticamente quello che serve al complemento a 100 viene esportato in America Latina e in Asia. In questo senso perciò è un settore, l'alto di gamma italiana o la fascia di eccellenza dei settori dell'arredamento, della gioielleria, della velocità e della moda, sono settori appunto che hanno una fortissima valenza esportativa, oltre al fatto di rappresentare alcuni valori dello stile di vita italiano, del design, della qualità, dell'innovazione tecnologica del nostro paese. Un settore fortissimamente esportatore. Grazie ad Armando Branchini, segretario generale di Fondazione Alta Gamma, per essere stato con noi e buonasera. Buonasera a lei. Adesso abbiamo la viabilità, poi un paio di risposte ad SMS e poi parliamo di banche. Le 18 minuti e 42 secondi, dite, chieda perché c'è poco debito privato, se si consuma quel lusso, si consuma quel livello di lusso. Beh, insomma, la risposta è già insita nell'SMS che è stato mandato e nella domanda che abbiamo fatto poco fa, insomma, che certamente c'è in tutto questo. Ovviamente, se i livelli di consumo in Italia sono questi dal lato del lusso, c'è evidentemente dell'evasione fiscale. Poi c'è anche gente che compra il lusso direttamente qua, evidentemente. Sul fatto di vergognarsi a chi si vendono i prodotti,